Europa 24. Un buongiorno da Gigi Donnelli. I negoziati per la Brexit dureranno meno di 2 anni, così Michel Barnier, capo negoziatore per la Commissione Europea, nella sua prima uscita pubblica. Se Theresa May notificherà l'articolo 50 a marzo 2017, ovviamente, il negoziato inizierà alcune settimane dopo per trovare l'accordo entro l'ottobre 2018. Tutto questo per lasciare il tempo previsto per le ratifiche. E sempre sulla Brexit, sarà una Brexit ordinata e liscia, così con queste parole il ministro che deve attuare il divorzio britannico da Bruxelles, David Davis, e il cancelliere dello scacchiere Philip Hammond hanno rassicurato in un incontro i vertici della City di Londra. Nel mondo finanziario preoccupa, anche alla luce di quello che sta accadendo in Europa, l'instabilità e le turbulenze che possono arrivare dal processo di addio all'Unione. E adesso invece correzione alla manovra, ma non subito. L'Eurogruppo chiede misure aggiuntive per l'Italia. L'Europa concede tempo sulla manovra all'Italia, che tira il fiato, ma l'Eurogruppo riunitosi ieri tiene il punto e chiede significative misure aggiuntive. Viene così congelata la richiesta di correzioni sulla legge di bilancio 2017 in attesa di indirizzare tale richiesta al prossimo esecutivo. Da una parte una doccia fredda all'indomani del referendum con l'Eurogruppo che, esaminando i piani di bilancio dei paesi dell'Eurozona, tra gli altri Belgio, Cipro e Lituania, conferma che l'Italia è a rischio di non rispettare le regole del patto di stabilità, come dice il presidente dell'Eurogruppo Dijsselbloem, confermando l'opinione della Commissione. Dall'altra è lo stesso Dijsselbloem che smorza i toni e precisa che non è la richiesta di una manovra aggiuntiva, ma si tratta di un invito formale a ridurre il deficit strutturale e il debito, che stando alle stime aumentano. Per la Commissione infatti lo scostamento con gli impegni presi ammonta circa 5 miliardi di euro da trovare ora, e questo è il nodo, con gli aggiustamenti richiesti. L'Europa si accontenterà anche di aggiustamenti minori, perché concederà nuova flessibilità su migranti e terremoto. Nonostante l'assenza giustificata al tavolo del ministro Piercarlo Padoan, che ha sentito il presidente dell'Eurogruppo a distanza, il nuovo richiamo dell'Europa resta dunque nei limiti e l'Eurogruppo non può fare a meno di concedere almeno flessibilità sui tempi e i contenuti della legge di bilancio, ora al Senato in seconda lettura. Tempi che sono comunque legati alla crisi politica. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. Ed ora qualche dato sulle performance degli studenti italiani, che migliorano in matematica mentre restano stabili quelli in scienze e nella capacità di lettura. Il quadro che emerge dai test OSCE PISA 2015 sulle competenze degli studenti quindicenni, in cui i risultati sono stati diffusi oggi a Bruxelles. Ed è tutto per questa edizione. Adesso, come sempre, la linea va a tutti convocati. Ci sentiamo domani. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.